Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Siamo ancora qua, benvenuti a Mebius, ciao Chiara. E ciao Federico, benvenuti a tutti, ciao. Allora incominceremo con i Neanderthal romani a Roma. Sì, che sembrerebbero molto più vecchi di quello che pensavamo. E poi invece andiamo in Madagascar, vediamo un po' come i lemuri risolvono i conflitti, forse sono più bravi di noi. E si picchiano non male. E infine parleremo di oceani, perché il premio Balzan è stato dato ad un oceanografo. E ora si parte. Siamo costretti e siamo felici di esserlo a tornare sui nostri cugini Neanderthal, sì, perché continuano a mandarci notizie. Allora, è una notizia di qualche giorno fa ed è stata riportata appunto su diversi quotidiani, quindi qualcuno l'avrà sentita, ed è questa sorta di ridatazione che è stata data a dei resti di Homo Neanderthalensis, ovvero c'è la data presunta dell'arrivo, insomma, dell'esistenza di questa specie nei pressi di Roma. Perché in due momenti, nel 1929 e nel 1935, si sono rinvenuti due crani di questo Neanderthalensis, che fino a proprio qualche settimana fa si pensava avessero 125.000 anni. E no, invece. Invece sono molto più vecchi, ecco. Ma molto più vecchi, quasi del doppio. In realtà sembrerebbe, e qui adesso il nostro ospite forse ce lo confermerà, che hanno 250.000 anni, per cui giunse a Roma, o comunque arrivò a Roma, in tempi ben precedenti. Molto prima di Romolo e Remo. Tutto questo è stato fatto grazie allo studio di quelli che sono stati i sedimenti, in qualche modo, geologici in cui sono stati trovati. E quindi qui con noi stasera c'è ovviamente un geologo che è stato coordinatore di questo studio. Quindi diamo il benvenuto a Fabrizio Marra, buonasera. Buonasera. Buonasera. Lei è ricercatore dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed è l'istituto che ha portato avanti questa ricerca attraverso la quale appunto è stata retrodatata la presenza dell'Homo Neanderthalensis nel nostro territorio. Esattamente, ecco. Sì. Beh, e quindi anche in Europa, No, diciamo, no? Che questa datazione lo porta più o meno alla stessa età della comparsa in Europa, perché in Europa, diciamo, era già riconosciuto essere comparso prima. Quindi è il nostro italiano. C'era, diciamo, un dato, insomma, che non tornava, quindi un tassello in più nella ricostruzione. No, ho detto bene che, insomma, grazie allo studio della geologia siamo riusciti a dare una datazione più precisa e molto retrodatata? Sì, a maggior ragione del fatto che questi teschi sono stati trovati proprio all'interno di sedimenti fluviali, all'interno di un banco di ghiaia lungo la Valle dell'Agno. E questo banco di ghiaia prima non era stato preso in considerazione, oppure avete fatto degli studi per cui sembrerebbe che questo banco di ghiaia arrivi appunto da molto più lontano? Come è avvenuto? Allora, è proprio, diciamo, dallo studio della genesi di questo banco di ghiaia, del suo significato da un punto di vista sedimentologico e paleoambientale. Perché, diciamo, noi il nostro approccio è stato proprio un approccio essenzialmente geologico, cioè il nostro tentativo è stato quello di dare un'età ai sedimenti, indipendentemente, diciamo, dal fatto che contenessero questi resti neandertaliani, okay, che peraltro, diciamo, i paleoantropologi avevano rimarcato più volte che avessero dei caratteri arcaici, e la cosa era un po' in contrasto con quest'età più giovane rispetto al resto dell'Europa. Ecco, e quindi lì, studiando i sedimenti, in qualche modo voi avete fatto uno più uno, nel senso che, sapendo che il livello, ad esempio, del mare non è stato costante, a seconda delle glaciazioni, dei periodi, si hanno sedimenti diversi, voi attraverso l'osservazione di questo siete riusciti a capire, a datare? Esattamente, ma proprio perché negli ultimi 10, anche 15 anni, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e attraverso collaborazioni internazionali, abbiamo diciamo, sviluppato un metodo diverso, un approccio diverso alla geologia, allo studio della geologia di quest'area in particolare, proprio attraverso la correlazione delle fasi di sedimentazione con le fasi glaciali che sono avvenute nell'ultimo milione di anni. E in particolare abbiamo riconosciuto, grazie soprattutto a datazioni radiometriche fatte dai laboratori di geocronologia di Berkeley, sui prodotti vulcanici che sono intercalati nei sedimenti di quest'area, abbiamo potuto datare questi sedimenti e quindi sostanzialmente ricostruirne una cronologia che ci ha indicato che la sedimentazione è stata strettamente controllata dalle variazioni del livello del mare durante le epoche glaciali in questa zona. Ma in quella zona c'era il mare all'epoca in cui c'erano i nostri cugini neandertaliani romani? Diciamo, no. Il mare era una valle fluviale esattamente come adesso, però il mare è, diciamo, 100.000 anni fa e ancora di più 250.000 anni fa, che è poi l'età attuale di quei sedimenti, era più prossimo all'interno, perché quello che siamo riusciti a ricostruire proprio studiando la geologia è che c'è stato un sollevamento progressivo negli ultimi 300.000 anni e che, diciamo, ha portato i sedimenti più antichi a quote più elevate rispetto ai sedimenti più recenti. Ah, proprio ragionando sulle quote di questi sedimenti siamo arrivati a capire che sostanzialmente queste ghiaie non potevano essere interpretate come le avevano interpretate 100 anni fa. Certo. 100 anni fa questo, il deposito in cui sono stati ritrovati i teschi è stato interpretato come un terrazzo fluviale dell'ultimo interglaciale, detto in parole povere la piana della valle dell'Aniene formatasi alla fine della penultima glaciazione 125.000 anni fa. Certo. Però proprio adesso, rivedendo le stratigrafie, gli studi fatti all'epoca, perché ora è tutto ricoperto da palazzi, non si può vedere direttamente i terreni, però sono stati fatti dei studi di grandi dettagli, hanno descritto la stratigrafia. Che cosa c'è sotto, insomma? Cosa c'è sotto? E rivedendo quella stratigrafia abbiamo avuto un'intuizione, abbiamo detto queste ghiaie a questa quota, in questo posto, non possono avere 125.000 anni. Le ghiaie di 125.000 anni deposte dal fiume dovrebbero trovarsi più basse in quota, mentre a questa quota queste ghiaie corrispondono alle ghiaie che noi troviamo del ciclo di 250.000 anni fa, ciclo che troviamo per esempio lungo i tagli della tangenziale. Ecco, infatti le stavo proprio per dire che vi hanno un po' aiutato anche i lavori di costruzione della tangenziale. Assolutamente, quelli proprio perché erano proprio accanto al sito e lì noi a suo tempo abbiamo datato i sedimenti, abbiamo riconosciuto la stratigrafia, le quote e quindi abbiamo visto che questi sedimenti, diciamo, si correlavano bene con quegli altri in questa area che avevamo studiato e datato a 250 e anche 300.000 anni fa. E quindi abbiamo potuto fare, ecco, come si dice, 1 più 1 uguale 2, cioè quelle ghiaie lì erano le stesse dei sedimenti intorno alle stesse quote. Ma quindi siamo in un territorio densamente abitato, insomma, questi due. Sì, non l'abbiamo detto, è Sacco Pastore vicino a Roma, è un territorio tra case molto vicino alla capitale. Ma io penso che la domanda volesse intendere a quel tempo. Cioè era molto frequentato immagino che le case magari anche c'era molto abusivismo fin da allora, lei dice credo. Perché la notazione non sarebbe, perché effettivamente il fatto di aver trovato due crani dello stesso posto insomma fa pensare a che ci fosse un insediamento e una frequentazione abbastanza estesa di quest'area, non una tangenziale. Ritornando alla domanda seriamente, sì, la zona è intensamente urbanizzata e è completamente costruita e non affiora più niente. Raccontato così sembra davvero semplice il metodo che avete utilizzato, invece appunto ci sono voluti molti anni, giustamente. Quindi ancora buon lavoro e buona ricerca, Marra. Grazie a voi. Arrivederci, buon lavoro. Sentiamo le notizie sul traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Adesso andiamo tutti in Madagascar, ma attenzione perché è un posto dove ci sono un sacco di liti. Sì, di liti tra lemuri. Tra lemuri. Perché parleremo di questa specie che si chiama lemur catta, che è appunto il lemure del Madagascar. Lo faremo insieme ad un ospite che è già stata con noi tante volte ed è la nostra primatologa preferita, Elisabetta Palagi. Benvenuta, bentornata. Grazie a voi di avermi chiamato. Benvenuta. Ti diamo il detto perché ormai sei di casa. Allora, tu lavori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, sei anche presidente dell'Associazione Primatologi Italiani e hai fatto un nuovo studio su appunto il lemure del Madagascar, che è diventato molto noto anche grazie alla Disney, ma vabbè, ma questo non importa. E questa volta tu fai tante ricerche ovviamente e ognuna ha un proprio obiettivo. In questo caso l'obiettivo era studiare il conflitto tra lemuri. Sia mai che i lemuri sanno gestire in qualche modo il conflitto e sanno riconciliarsi meglio di noi umani, Elisabetta? Dunque, ora, meglio di noi umani non direi. No, la cosa però che è, diciamo, emersa dallo studio è che anche una specie particolare di lemuri, che è lemur catta, cioè il classico lemure con la coda ad anelli bianco e nero, sì, sa riconciliare, perché non era affatto certo. C'erano stati studi preliminari che indicavano che in realtà questa specie non era in grado di farlo, perché non gli serviva. Ah, allora andiamo con ordine. Vogliamo prima definire un pochino questa specie e soprattutto che caratteristiche ha dal punto di vista proprio della popolazione, come si comportano, chi comanda? Dunque, nella murcatta comandano le femmine. Evviva! In modo assoluto e più despotico possibile. Ecco, vedi, litigate come i maschi. Sono anche cattive. Litigate come esatto. Noi. Il che vuol dire che i maschi mostrano deferenza vera e propria. Le femmine ribadiscono la loro dominanza con aggressioni che possono essere anche molto molto pesanti. Ma per che cosa litigano tipicamente? Beh, la prima cosa è la priorità di accesso al cibo. Considerate che il Madagascar è soprattutto la zona dove vivono questi animali, questa specie in particolare, è molto stagionale, quindi le risorse sono concentrate in stagioni molto ristrette. Diciamo nella loro estate, che è il nostro inverno. Sì, è tutto ribaltato, esatto, perché siamo nell'emisfero sud, chiaramente. E questi animali, queste femmine in particolare, devono assolutamente riuscire a mangiare il più possibile nella stagione buona, perché hanno così più possibilità di portare avanti la gravidanza e quindi di aumentare la loro fitness, cioè il loro potenziale riproduttivo. La competizione in quei insomma periodi è molto elevata, e quindi le aggressioni in qualche modo è molto elevata. Un altro frequenti momento in cui è molto elevata, ma veramente molto elevata, è il periodo degli accoppiamenti. Mm-hmm. Ovvio. La femmina va in estro soltanto in circa 20-30 ore l'anno, concentrata in due giorni. E cioè, quindi qui si scatenano. Esatto. Quindi c'è una lotta, diciamo, importante, una competizione più che lotta tra maschi, ma soprattutto c'è una scelta femminile che viene fatta sulla base del maschio, che è più, come dire, intraprendente, quindi quello che il riesce a buscarne maschio di più dalla femmina. Ah, non il classico maschio alfa. Ah no, quello che resiste di più, alfa, diciamo. Quello che riesce a prendere botte. Una lotta tra maschi, ma soprattutto una lotta tra maschi e femmine. Ah, attenzione. Ecco, questa è la stagione in cui non si riconcilia. Allora, qui se litigano, non c'è verso. Sì, però okay, c'è troppo in ballo. Troppa aggressività, troppa poca tolleranza, perché l'aggressore e la vittima possano in qualche modo riappacificarsi nei minuti successivi al conflitto. Ecco, okay, scusa, qui io ho due domande. Primo, cosa vuol dire che litigano, cioè si fanno veramente male? Sì, sono aggressioni anche che possono includere morsi, ferite. Con... E poi è uno stress continuo, perché sono reiterate, cioè sono ripetute su sì, sì, sì, c'è proprio una pugni e schiaffi, non si discute. Però prima tu, l'hai ripetuto anche adesso, hai detto una cosa che mi suona abbastanza strana, cioè ci può essere una situazione di lite che non si ricompone. Cosa vuol dire? Che quelli lì nel gruppo non si guardano più per anni? No, non è così. Ah. Diciamo che in quel periodo in particolare una riconciliazione, un conflitto non riconciliato tiene separati per un certo periodo gli animali. Poi ora, dimenticano. Se voi espandete a tutto il periodo annuale, questo può essere molto pericoloso, perché può portare alla disgregazione del gruppo sociale. Certo. Quindi questi gruppi sociali in realtà non tengono, possono anche proprio disgregarsi. E cos'hai? Dei singoli individui che vanno a mettersi in altri gruppi? Che rimangono isolati? Sì, ci possono essere delle vere e proprie fughe oppure estromissioni attive. Elisabetta, però raccontaci qualcosa invece della riconciliazione, perché come sanno appunto essere molto aggressivi e competitivi, allo stesso tempo poi sanno riconciliarsi. Voi avete osservato dei comportamenti specifici? Sì, normalmente si riconcilia i due soggetti, aggressore e vittima, si possono riconciliare rientrando in contatto, facendo delle brevi sessioni di grooming, cioè di toelettatura del pelo, che i lemuri fanno con la bocca anziché con le mani. Si spulciano a vicenda. Si possono toccare. Mm. Il toccarsi riapre il toccarsi, come dire, risancisce il ripristino della relazione. Beh, non è molto diverso da come facciamo noi umani, no, cioè, no. Ci può essere una stretta di mano, un momento di scuse, ecco, un po' sembra così, sì, da come ce lo racconti. Chiaramente nell'uomo c'è il linguaggio articolato e quindi sì, come che non dire, è l'espressione emozionale dal punto di vista verbale che ci aiuta. Cioè, sì, però sì, effettivamente i comportamenti non so, la dinamica non è molto diversa, con la sola differenza che i lemuri se riconciliano, riconciliano subito. Nelle nostre situazioni familiari a volte si fa dopo 20 anni. Esatto. È proprio vero, ma per quello proprio all'inizio dicevo, secondo me in alcuni casi si comportano molto meglio che gli umani. Comunque va bene. Sì, però qui avevate il potere voi ragazze, non avete, non l'abbiamo non sfruttato. C'è vista la differenza, non c'è vista. Va bene, Elisabetta, grazie. Io so che voi continuerete a lavorare sui lemuri, sui cebi e su tutti questi altri animali, sui primati, quindi attendiamo con ansia altre ricerche. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Ciao, buona ricerca. Premio Balzan 2015, uno dei vincitori, il premio è stato consegnato a Berna un paio di settimane fa, e uno dei vincitori è David Michael Carl, uno dei più prestigiosi oceanografi esistenti. Ha fatto grandi ricerche sulla comprensione del ruolo e dell'importanza dei microorganismi nell'oceano. L'ha intervistato per noi Marco Ferrari, un collega giornalista di scienza. Il professor Carli, il premio Balzan è stato assegnato per i suoi studi sui microrganismi oceanici. Che importanza hanno queste specie, batteri e virus negli ecosistemi degli oceani? Questi microrganismi, specie i batteri fotosintetici e gli eterotrofi, sono estremamente importanti per due ragioni. Quelli fotosintetici producono circa la metà dell'ossigeno atmosferico di cui abbiamo bisogno. Le piante terrestri ne producono l'altra metà e senza quello dei batteri negli oceani dovremmo saltare un respiro su due, per così dire. Un altro è il loro ruolo nel ciclo dei nutrienti, come azoto o fosforo, che usiamo anche in agricoltura. Queste sostanze sono importanti anche negli ecosistemi marini, perché senza azoto o fosforo l'ecosistema globale rallenterebbe fino a fermarsi. Sono i batteri eterotrofi che prendono la materia organica e la rimineralizzano, la trasformano cioè in sostanze inorganiche, messe a disposizione anche dei batteri fotosintetici. Lo fanno allo stesso ritmo della fotosintesi e questo crea un ciclo che permette anche alla fotosintesi di procedere. Senza di loro la materia organica si accumulerebbe sul fondo degli oceani. Questo è quello che è avvenuto durante una parte della storia della Terra. I combustibili fossili, carbone, petrolio e gas naturale, sono una dimostrazione dell'accumulo di materia organica durante lunghissimi periodi geologici. Milioni di anni fa, per un certo periodo, c'è stato un distacco tra le fotosintesi microbica e la degradazione. Quello che è successo è che la materia organica si accumulò e la fotosintesi rallentò molto per un certo periodo. È ironico che noi stiamo usando la stessa materia organica per far funzionare il nostro sistema industriale e tutta la nostra vita. Stiamo anche accelerando l'uso dei combustibili fossili. Un processo che normalmente accadrebbe in migliaia o milioni di anni, lo stiamo comprimendo in pochi decenni. E questo è un grosso problema. Un'altra cosa che questi batteri fanno è decomporre e detossificare il pianeta da tutte le sostanze inquinanti che produce l'uomo. Non solo i prodotti organici, che in fondo sono sostanze naturali, ma anche plastiche, pesticidi e ritardanti di fiamma. Queste molecole non sono prodotti naturali, eppure alcuni microrganismi sono in grado di spezzarli. Ancora, se non ci fossero batteri in grado di degradare i pesticidi, i nostri campi ne sarebbero pieni e le piante non crescerebbero. La scienza conosce un altro tipo di microrganismi chiamati archea, che sono simili ai batteri ma che hanno una vita completamente differente. E questi organismi, questi archea, sono presenti anche nell'oceano? Sì, ci sono. E io ho contribuito alla conoscenza di questi misteriosi esseri, che sono simili ai batteri ma che hanno un metabolismo del tutto diverso. Abbiamo infatti pubblicato un articolo nel 2001 dimostrando l'esistenza degli archea anche in mare. Non pensavamo neppure che ci fossero e credevamo che fossero limitati ad ambienti insoliti, come quelli molto caldi o super salati. Adesso sappiamo che sono praticamente ovunque nei mari. Iniziano ad essere presenti a circa 200 metri di profondità e una volta arrivati a 1500-2000, questi organismi dominano l'ambiente marino. Non sappiamo ancora perché questo accada, anche perché non riusciamo ad allevarli nei nostri laboratori e non sappiamo che metabolismo abbiano. Una delle cose più interessanti di questi esseri è che hanno una storia evolutiva del tutto diversa dai batteri che conosciamo, anche se sono molto simili nell'aspetto. Sono molto più simili a noi umani e a tutti gli organismi più complessi di quanto non lo siano ai batteri. Una scoperta degli anni 90 che ha sconvolto la biologia. Quindi lei ritiene che lo studio della biodiversità negli oceani sia appena cominciato? È appena cominciato anche grazie alla metagenomica, la tecnica di ricerca con cui si possono identificare organismi che non siamo in grado di allevare in laboratorio. Sono organismi nascosti, per così dire. Potrebbero essere del tutto diversi dagli altri filogeneticamente e non sappiamo come questo si ripercuote nel loro metabolismo. Così organismi con una storia evolutiva differente potrebbero avere gli stessi stili di vita e ruoli simili negli ecosistemi. Un fenomeno che gli studiosi chiamano evoluzione convergente e allo stesso tempo organismi simili potrebbero avere ruoli ecologici del tutto differenti. Parliamo ora del problema del cambiamento climatico. Io credo ci siano due aspetti di questo problema, cioè l'acidificazione delle acque dell'oceano e il riscaldamento vero e proprio. L'intera massa oceanica subisce anch'essa questi fenomeni o è protetta, diciamo, dalla sua vastità? No, anche gli oceani subiscono il cambiamento climatico. I due che lei ha individuato sono problemi simili, ma con un impatto differente. Il riscaldamento causato dai gas a effetto serra impedisce il rimescolamento degli oceani e ne rallenta la circolazione. Oltretutto stimola la degradazione delle sostanze organiche da parte degli organismi rispetto alla fotosintesi, che dipende più dalla luce che dal calore. La degradazione potrebbe addirittura sorpassare la fotosintesi e in questo caso gli oceani diventerebbero dei consumatori di ossigeno invece che dei produttori. E liti fra lemuri di cui parlavamo prima si possono vedere? Si possono vedere, ovviamente anche lì cercheremo di fare una gallery fotografica sul nostro blog, che dovete tenere monitorato appunto perché mettiamo sempre qualche materiale in più integrativo rispetto alla puntata, quindi lo trovate sul sito di radio24.it. Per oggi è tutto. Buona settimana a tutti.